Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti, benvenute a Mebius. Natale è ormai alle porte, bisogna prepararsi per la cena del 24, ecco perché è già qui con me Chiara Albicocco, la responsabile nella nostra redazione della chimico-fisica degli alimenti. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti, buone feste, allora esatto. Ti devo dire. Sì, dai, certo. Sì, abbiamo ancora l'infradito e i costumini. Certo, è settembre, ma dipende da che ricetta si vuol fare per Natale, perché alcune ricette richiedono tempo. Molta preparazione. È una lunga cottura. Questa ricettona è? Abbiamo trovato questa ricetta del gastronomo francese Grimaud de la Reynière, che è tratto da un almanacco del 1807 che si chiama Almanacco dei Golosi. Era una guida dei ristoranti, una delle prime guide gastronomiche dei ristoranti di Parigi, e presenta una ricetta. Non era un libro di ricette, però abbiamo tratto questo goloso ripieno, volatile ripieno. Allora, si parte con un otarda, che è un volatile di grosse dimensioni, che può raggiungere anche il metro di lunghezza e pesare anche 20 kg. Bello, ecco, grosso. Sì. Ok, prendiamo l'otarda e la riempiamo di tacchino. Un tacchino dentro l'otarda. Sì. Poi il tacchino ripieno di oca. Di oca. Ora un'oca ripiena di fagiano. Sì. Poi prendi il fagiano, sì, e lo riempi di pollo. Certo, banale. E dentro al pollo? Cosa c'è? Ci mettiamo un'oca. Oh, ancora. E poi una faraona, sì, che finisce dentro l'oca. Sì. E nella faraona un'alzavola, che è una specie di anatra. Sì. E dentro quest'anatra una beccaccia. Ecco. Dentro la beccaccia un piviere. Certo. Sembra un po' una filastrocca, ma è reale. È vero. Allora, nel piviere ci mettiamo una pavoncella. Ecco. Poi una quaglia. Cosa, e un tordo. Cosa vuoi mettere dentro la quaglia? Il tordo. Cosa vuoi mettere dentro un tordo? Non saprei. Un'allodola. Eccola. Dentro l'allodola ci mettiamo una specie di passerotto. Emberiza ortulana. Questo è il nome scientifico. Parliamo del nome scientifico. E qui anche un canapino, che è un piccolo passerottino. Piccolo. Sì. E a questo punto due olive e due capperi. E siamo arrivati a? E quanti ne abbiamo fatti? Non so, saranno una ventina di uccelli uno dentro l'altro? Non pochi. Ecco. Ci vuole il suo tempo. Sì. Ascoltiamo i titoli della trasmissione e poi con il nostro esperto Davide Cassi cerchiamo di capire se questa cosa tremenda è funziona. Fattibile. È fattibile. I titoli. I principi fisici del più grande ripieno della storia culinaria. 17 volatili, uno dentro l'altro. Ricordiamo Nicola Cabibbo, un grande fisico italiano che ci ha lasciato a metà agosto. Anche le scimmie investono male i propri denari, rischiando quando invece bisognerebbe essere più saggi. Organismi che mutano il sesso di altri e tecniche per individuare la provenienza degli alimenti. Due aspetti molto diversi di una stessa scienza, la biologia evoluzionistica. Perché tanta attenzione oggi nel manipolare il proprio corpo? Modelli culturali imposti, ma anche radici profonde. Allora Federico, possiamo o no cucinare questi 20 uccelli uno dentro l'altro, questi 20 volatili per Natale? Lo dobbiamo chiedere al nostro massimo esperto, il nostro fisico bongustaio dell'Università degli Studi di Parma, il professor Davide Cassi, che conosciamo molto bene. Buonasera professore. Buonasera. Buonasera, tiene questa roba qui, si può fare? Esiste, l'hanno fatta? Penso che l'abbiano fatta, è una tradizione già degli antichi romani, questa del camuffare un volatile dentro un altro, oppure un pesce dentro un volatile, via dicendo. Certo che un numero così grande è veramente notevole. Ora, se si tratti di un gioco o di una realtà, io non lo posso dire perché non posso testimoniare, però se si trovano i volatili delle dimensioni giuste, in modo da poterli veramente infilare uno nell'altro dopo averli svuotati dell'interiora, si può fare, ma l'unico modo penso sia cuocerli separatamente. E poi assemblarli dopo, diciamo. E assemblarli dopo, perché c'è un grosso problema di propagazione del calore nel caso di tutte queste interfacce tra un volatile e l'altro. Per cui l'unico modo sarebbe cuocerli a temperatura molto bassa. Cioè per un tempo infinito. Gradi, per esempio, per un tempo piuttosto lungo, e poi alla fine magari rosolare il volatile esterno, però non credo che il risultato sia fantastico, mentre con una cottura separata, che tra l'altro si usa tantissimo in cucina, in varie preparazioni, si dovrebbe raggiungere un buon risultato. D'altra parte questo delle cotture in tempi diversi è un problema che sorge anche quando cuociamo un pollo. E certo. Perché le ali, per esempio, hanno un tempo di cottura molto diverso da quello di un pezzo. Beh, ma allora in questa ricetta qui vuol dire che l'ottarda iniziale è carbonizzata quando è cotto il piviere? No, allora, diciamo che se teniamo la temperatura di un eventuale forno abbastanza bassa... Ce la si fa. Riusciamo a far arrivare il calore all'interno senza bruciare all'esterno. Giusto in 2 o 3 mesi allora. Sì, esatto, in un tempo piuttosto lungo. Sì, no, però un buon numero di ore sì. Ah. È che anche tenendo la temperatura relativamente bassa si ha comunque un'evaporazione dell'acqua in superficie, per cui si rischia di seccare eccessivamente la carne esterna. Questo è il vero problema. Ecco, con le moderne tecniche di cottura sottovuoto forse si riuscirebbe ad evitare, forse. Forse. E invece se avessimo un microonde gigante la questione sarebbe un po' diversa? No, non sarebbe diversa perché purtroppo le microonde hanno una lunghezza di penetrazione limitata che normalmente si aggira intorno ai 3 cm negli alimenti, ma questo è anche il motivo per cui non si creano dei microonde di dimensioni troppo grandi. Che le microonde riescono a penetrare relativamente all'interno fin tanto che il pezzo da cuocere è piccolo. Ma se si tratta per esempio di un maiale intero è inutile provare a cuocerlo a microonde, avremmo una crosta spessa qualche centimetro e l'interno poco cotto come avverrebbe in un forno normale. E anche qualora fosse, non so, una faraona ripiena, il discorso è lo stesso, nel senso che il contenuto rimarrebbe comunque crudo. Una faraona è molto grande, diciamo, però con volatili di dimensioni più piccole si può tentare. Si può tentare. L'altro problema del microonde è che da solo non riesce a creare la crosticina, perché comunque l'evaporazione dell'acqua interna continua a rendere molle la superficie esterna. Niente, senta, lei prima diceva che anch'io sapevo questa cosa, che già dai tempi dei romani c'era questa passione dell'ultra ripieno, insomma. Ma io ho un po' la sensazione che fossero poi delle ricette, insomma, un po' schifose. No? Forse cioè, anche il gusto solo fosse spettacolari, un po' Molto spettacolari, ma che molto. Ma diciamo che ogni epoca ha il suo gusto, noi non riusciremo senz'altro a mangiare nemmeno le ricette più comuni, anche della gente non ricchissima di allora, perché si cibavano di alimenti che adesso assolutamente non accettiamo, tipo l'esempio più tipico è il garum, questa salsa di pesce che noi chiameremmo marcio fermentato, che usavano addirittura per condire le uova sode. Difficilmente adesso un palato moderno accetta questa puzza di pesce marcio. Certo. Poi mangiavano tantissimi ghiri. Adesso io pensavo che il ghiro non si mangiasse più, poi ho scoperto che in alcune zone rurali della Calabria esiste ancora. Eccolo, vede, mangiamo ancora un po' di tutto. Ghiri e gatti non tiriamo fuori. Non tiriamo fuori questo argomento. Vecchie diatribe. E poi c'è una tradizione ebraica, mi sembra, in cui addirittura prendono un asino come, involucro esterno e poi lo riempiono un po' come abbiamo letto. Non credo che sia ebraica, credo che sia comunque nordafricana. Mi era giunta questa voce di un ultra ripieno che parte dall'asino. Lei forse non ne sa niente? No, questa non la conosco, però è tutto fattibile. È verosimile. Chiaramente, come si faceva anticamente per mantenere basse le temperature e lunghi tempi di cottura, tutto dipendeva dalla distanza dal fuoco. Ancora adesso in Argentina, quando si cuociono dei pezzi interi di bestiame al fuoco, si tengono relativamente lontani in modo che il calore arrivi più lentamente e l'interno riesca a cuocere senza bruciare all'esterno. Quindi mi pare che una giornata intera di cottura a volte. Quindi il segreto è il giusto rapporto distanza, temperatura, tempo, ma anche forse quello che ci diceva all'inizio, il provare a cuocerli separatamente e assemblarli poi. Ma è finito il ripieno vabbè, è però il risultato suo bello... è lo stesso. Sì. Sì, io direi che il risultato migliore un cuoco oggi lo otterrebbe con le cotture separate. Per il resto c'è una regola molto semplice che ripetiamo sempre, che il flusso di calore dipende dalla differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno, per cui se noi usiamo un forno a temperatura alta arriva una grande quantità di calore che rischia però di cuocere fino a bruciare l'esterno senza riscaldare l'interno. Se invece la temperatura del forno è più bassa, il calore si propaga più lentamente, ma la differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno è decisamente minore. Quindi normalmente quando dobbiamo cuocere una torta o anche un pollo, per esempio, a seconda delle dimensioni, teniamo la temperatura più o meno alta. Grazie professore, come al solito, della sua consulenza anche in questi temi un pochino più bizzarri, che ci vengono in mente in redazione. Grazie e buon lavoro, ci sentiamo presto. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Restiamo fra gli argomenti alimentari e andiamo in tempi in cui le ricette elaborate, ricette a base di decine di ingredienti, erano quanto mai lontane dalla quotidianità. Erano tempi duri, quelli di qualche milione di anni fa, per gli ominidi. Andare a fare la spesa era abbastanza pericoloso e anche tornare a casa per il pranzo era un'attività non del tutto agevole, perché si può dire da diversi ritrovamenti che la possibilità di trovare nella propria caverna un orso o una tigre dai denti a sciabola era tutt'altro che remota. Una delle cose che maggiormente interessa i paleontologi è l'alimentazione. Cosa si mangiava in quei tempi? E il primo dato da osservare è che la ricerca in questa direzione sull'alimentazione è molto difficile. Bisogna individuare nei luoghi dove sono emersi segni di presenza umana i resti di pasti. Non è facile, perché un pasto è tipicamente costituito da materia altamente deperibile, figuriamoci dopo 2 milioni di anni o 4 milioni. Infatti, fra tutti gli insediamenti preistorici individuati dai paleontologi nelle zone più antiche per quanto riguarda la presenza umana, ovvero Etiopia, Tanzania, Kenya, e non sono pochi questi luoghi, soltanto 8 presentano tracce che si possono definire con buona certezza resti di pasti. Ebbene, una recente ricerca ha raccolto elementi quasi sicuri, insomma, che in un pasto databile 2 milioni di anni fa si è consumato del pesce. Al momento questa è la traccia più antica, forse prima d'allora si cenò solo con carne e bacche. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi parliamo di Nicola Cabibbo, un grande scienziato italiano. Lo faccio con Barbara Galavotti, che è già in studio qui con me. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Allora, Nicola Cabibbo ci ha lasciato a metà agosto, nello stile direi del personaggio, Barbara, no? Che fu appunto Cabibbo, un'uscita di scena silenziosa nel momento dell'anno in cui le notizie fanno meno notizie. È stato un nostro grande fisico e tra l'altro tu hai avuto diversi rapporti con lui, lo conoscevi abbastanza bene. Sì, io l'ho incontrato varie volte. Devo dire che Cabibbo è una persona di cui si sentirà veramente molto la mancanza. È stato sicuramente uno dei più grandi fisici degli ultimi decenni. Era una persona, come hai accennato tu, estremamente discreta, elegante e anche ovviamente di un'intelligenza straordinaria. Ci ha lasciato a 75 anni, che è un'età in cui sì, adesso è lecito aspettarsi di dare ancora molto di più, alla... Certo. E lui l'avrebbe sicuramente fatto, perché non ha mai ovviamente smesso di essere attivo e è stata purtroppo una malattia a fermarlo, a impedirglielo. Come vogliamo ricordarlo? Alcune cose principali, insomma, del suo modo di essere, della sua attività? Beh, per quel che riguarda l'attività scientifica, Cabibbo è stata una persona degli interessi estremamente vasti. Sicuramente la ricerca che è più legata al suo nome riguarda quella sulle forze deboli. Le forze deboli sono una forza fondamentale della natura che ha a che fare con la radioattività. Ecco, allora all'inizio degli anni 60 i fisici si arrovellavano perché non riuscivano a spiegare la natura e il comportamento di questa forza, e lui formulò una teoria, come il suo stile, molto elegante, molto brillante, molto semplice, che ne dava una spiegazione. Questa teoria non solo è stata poi accettata dalla comunità scientifica, ma ha aperto la strada alla scoperta dei quark, che sono le particelle che compongono i protoni, i neutroni, quindi il cuore degli atomi. Una scoperta che è stata al centro di un lungo dibattito nell'ultimissimo anno e mezzo, insomma, perché è stata connessa a un Nobel. Sì, direi quasi uno scandalo, perché nel 2008 è stata questa cosa clamorosa per cui finalmente è arrivato un Nobel molto atteso, legato alle scoperte su cui aveva lavorato Nicola Cabibbo, solo che il Nobel è stato assegnato a Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa, che sono due scienziati giapponesi che hanno effettivamente sviluppato e esteso le ipotesi di Cabibbo. Tutta la comunità scientifica si aspettava che anche lui fosse incluso tra i premiati. moltissimi lo ritenevano un atto dovuto, e invece questa cosa non è avvenuta, con grande sconforto della comunità scientifica. Però nella sua carriera di fisico altri importanti premi ne ha raccolti Cabibbo. Sì, moltissimi. Sì, ma per fortuna Cabibbo è una persona di cui è molto più facile ricordare i grandi successi e i molti riconoscimenti, piuttosto che eventi sgradevoli come quello connesso al Nobel. L'ultimo premio l'ha ricevuto proprio pochissimi giorni prima di morire, ed è un premio molto prestigioso, ed è la medaglia d'Irak. Medaglia d'Irak, sì, che è considerata un premio di fisica di altissimo livello. Appunto, non è un Nobel, ma comunque è fra i premi che sono i più alti che si possono ricevere. E poi, con l'occasione, vorrei ricordare, lui è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'ENEA, quindi ha guidato due dei più importanti enti di ricerca italiani, è stato fino all'ultimo presidente dell'Accademia Pontificia delle Scienze, lavorava all'Università di Roma La Sapienza. Ti farei sentire, Barbara, un breve estratto da un'intervista che gli hanno fatto non molto tempo fa, un paio d'anni fa, nel quale gli hanno chiesto qualcosa che non ha strettamente a che vedere con la fisica, anzi poco, ma perché la nostra specie, noi come esseri umani, rispetto alle altre specie, siamo così particolari, insomma, così singolari. E lui dà una risposta, secondo me, interessante, invece, proprio anche come fisico. Sentiamo. Chiaramente tra l'uomo e gli altri animali c'è un'enorme differenza. Noi abbiamo un linguaggio, abbiamo l'arte, abbiamo la religione, quindi abbiamo modi di espressione che sono unici alla specie umana rispetto a tutte le altre specie animali. Ecco, allora il mistero è: siamo veramente diversi o no? Cioè, la differenza tra noi e loro, che è sicuramente qualitativamente enorme, a cosa è dovuta? E ho ricordato che in fisica certe volte delle piccole differenze quantitative causano un'enorme differenza qualitativa. E ho fatto l'esempio dell'acqua, che appena sopra i 0 gradi centigradi è liquida e appena sotto è solida. Sono due oggetti completamente diversi, ed è una piccola differenza di temperatura di una frazione di grado che causa questo cambiamento. Quindi può essere che anche nel caso dell'uomo, in realtà l'uomo in qualche modo abbia superato una soglia nell'organizzazione neurale, eccetera, che ha permesso poi questa enorme esplosione di linguaggio, arte, religione, scienza. È un'immagine molto bella, insomma, molto efficace, cosa ne pensi? Sì, beh, c'è anche molto di Nicola Cabibbo in questa dichiarazione, anche breve. Nicola Cabibbo aveva una visione molto generale, sapeva avere una visione molto generale dei problemi, una caratteristica che si sta un po' perdendo fra gli scienziati, che sono costretti a specializzarsi sempre di più nel loro mirati settore. E poi l'altra sua caratteristica come scienziato era quella di amare cercare la ricerca della sintesi, di una semplice sintesi che spiegasse anche fenomeni complessi. Non gli interessava tanto spiegare il fenomeno in tutti i suoi dettagli, però darne una ricostruzione elegante, come una chiave di lettura semplice che potesse in qualche modo riassumerlo. In un certo senso faceva pensare a quell'arte zen di disporre pochi rami in un vaso in maniera da creare però qualcosa di una bellezza assoluta. Ecco, lui in qualche modo aveva una visione zen della fisica, a mio avviso. E anche questa è una tradizione non recentissima, perché molti grandi scienziati hanno sempre sostenuto che quando si coglie esattamente come stanno le cose, bisogna avere fra le mani dei principi molto semplici, no? Pensiamo, cambiando totalmente, quasi totalmente l'argomento, ovviamente pensiamo all'equazione di Einstein, uguale a mc quadro, è semplicissima, eppure riassume una visione assolutamente innovativa dell'universo e del cosmo, e quello era un po' il modo di pensare. Grazie Barbara, presto, grazie, alla prossima. Grazie Federico, a presto, grazie. Ciao, a tutti. Barbara. Ascoltiamo Lori Santos adesso, che dirige il laboratorio di psicologia comparata alla Yale University, Stati Uniti. Qui si fanno in particolare ricerche volte a capire se, da come si comportano certi animali, tipicamente scimmie, ci arrivano delle idee interessanti su come ci comportiamo noi e viceversa anche. In breve, ci sono dei modi di fare che mettono insieme molti animali diversi fra loro. In una recente conferenza, Lori Santos ha detto le seguenti cose ad un certo punto dei suoi ragionamenti sui comportamenti. Ha detto: But of course there's a second observation about the human species that I want to focus on a little bit more. And that's the fact that ha detto, c'è un secondo aspetto importante relativo alla specie umana sul quale voglio soffermarmi, cioè che senza dubbio siamo intelligenti, spesso siamo intelligenti come nessun'altra specie, ma riusciamo anche ad essere tremendamente stupidi in certe situazioni nelle quali dobbiamo prendere delle decisioni. E più avanti ha aggiunto: But it turns out what social scientists are actually learning is that most of us when put in certain contexts. Quello che viene fuori, dice Lori Santos, è che molti sociologi, tra l'altro, sottolineano è che tanti di noi in certe situazioni fanno lo stesso errore, errori che sono assolutamente prevedibili e che continuiamo però a fare ininterrottamente come se fossimo immuni alla evidenza delle cose. E qui Lori ha poi portato l'esempio macroscopico più recente, cioè l'origine della grande crisi di questi anni, ovvero soprattutto negli Stati Uniti gli enormi debiti contratti da milioni e milioni di persone che hanno continuato a comprare, certo, spinti da cattivissimi consiglieri, hanno continuato a comprare sapendo, case, per esempio, sapendo che l'ammontare dei debiti era superiore a quanto ognuno stava guadagnando e avrebbe potuto guadagnare oltretutto negli anni a venire. A questo punto Lori Santos e il suo gruppo si sono chiesti: possiamo fare degli esperimenti su animali che ci possano dire se questi comportamenti razionali, quando ci sono di mezzo degli interessi, possano essere non solo umani? Sullo schermo dietro di lei è apparsa un'immagine. A questo punto e lei ha detto: And so this is why we turn to these guys here. These are one of the guys I work with. This is a brown capuchin monkey. These guys are new world. E ha presentato, ha detto, uno dei personaggi con i quali noi abbiamo lavorato. È una scimmia cappuccino, nota anche come i cebi, dai cornetti. Sono primati del nuovo mondo e sappiamo che si sono differenziati da noi circa 35 milioni di anni fa. Cosa hanno fatto con il loro gruppo di scimmie cappuccino? Beh, c'era una premessa da soddisfare. Infatti, how are we going to actually ask monkeys about money if they don't actually use it? Come si poteva fare esperimenti su come le scimmie si relazionano al denaro, ha detto la Santos, se loro il denaro non ce l'hanno. E ci siamo detti: proviamo a insegnare alle scimmie come si usa il denaro. Ecco qua, dice Laura, ho qui in mano la prima moneta di una valuta non umana e ha fatto vedere un semplice gettone come quelli che avevamo anni fa quando non c'erano i cellulari. Le scimmie cappuccino hanno imparato presto a usare i gettoni. In pratica, un ricercatore si avvicinava alla gabbia con un chicco d'uva dopo che le scimmie avevano già in mano o vicino a loro dei gettoni. Se la scimmietta dava un gettone, allora riceveva un chicco d'uva, altrimenti niente chicchi. Se dava due gettoni, due chicchi. Nel giro di poco tempo, non è difficile immaginarlo, ogni scimmietta aveva i suoi gettoni e se li teneva, i ricercatori glieli davano ad un certo punto della giornata. Svolgendo questi ricercatori praticamente una funzione da banca centrale, insomma. E infatti, ecco il primo comportamento molto umano da parte delle scimmiette, sono iniziati i furti di gettone. Attenzione adesso, torniamo agli umani. Si sono fatti molteplici esperimenti per verificare quello che sto per raccontarvi. State bene attenti. Vi danno 1.000 euro. Bene, poi vi dicono: adesso te ne diamo altri 500, oppure si gioca a testa o croce. Se viene testa, ne prendi altri 1.000. Se viene croce, non prendi niente e resti con i 1.000 iniziali. Che cosa scegli? La stragrande maggioranza da tutti gli esperimenti viene fuori che sceglie la prima via. Mi prendo i miei 500 euro sicuri e non mi metto a giocare a testa o croce. Comportamento molto saggio. Altro esperimento, il secondo. Vi danno 2.000 euro, poi vi dicono: adesso te ne tolgo 500. Oppure si fa a testa o croce. Se viene testa ne perdi 1.000, se viene croce non perdi niente. Che cosa succede? La stragrande maggioranza delle persone sceglie di tentare a testa o croce, dove c'è un rischio elevato di dimezzare il capitale, mentre sarebbe decisamente più saggio contenere le perdite e dare via i 500 euro. Come mai? La tesi che è stata proposta, da cui si parte, ti tolgo subito i 500 euro, non è tollerata, perché dobbiamo subito perdere. cioè ci propongono subito di perdere, allora ci mettiamo in una condizione in cui tentiamo la sorte. Nel primo caso siamo saggi perché comunque ci viene fatta una buona offerta, nel secondo caso viene fuori che non tolleriamo di perdere subito qualcosa. Andrebbe adesso via troppo tempo se vi spiegassi in che modo i ricercatori della Yale University hanno impostato le cose in modo che anche le loro scimmie cappuccino, per loro ci fossero delle scelte analoghe usando gettoni e chicchi d'uva, però è una modalità assolutamente coerente ed efficiente. Il fatto importante è che il comportamento delle scimmie è stato identico a quello degli umani. Avete capito? Io adesso poi non so dirvi se nella crisi del mercato immobiliare americano si stiano inserendo anche delle scimmie cappuccino, perché diciamocelo, da quello che si è visto, mica si potrebbe escludere che le banche possano dare mutui a chiunque si presenti allo sportello. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Riciclaggio dei materiali elettronici, cellulari, computer, navigatori, televisori, radio, come si dice in questi casi, l'elenco potrebbe essere infinito. Da un certo numero di anni si è capito che non è il caso di buttare in una discarica qualunque quando si finisce di utilizzarli questi prodotti, perché contengono molti metalli che non sono affatto salubri per l'ambiente e chi ci vive. Naturalmente poi bisogna capire, se si mette a punto un sistema di raccolta differenziata, dove va a finire la spazzatura elettronica, e qui possono nascere dei problemi. Andiamo allora in Cina. Colà è appena terminato un seminario fra scienziati americani e cinesi nel quale si è analizzata la situazione del riciclaggio laggiù in Cina, il riciclaggio elettronico, perché, e qui il problema cresce, molto materiale di questo tipo, ma davvero molto, tanto, arriva in quel paese per essere riciclato, non è solo roba cinese, la mandiamo anche noi. Evidentemente c'è di mezzo il solito problema dei costi di lavorazione che sono inferiori. Fatto sta che da non poche indagini emerge che i sistemi di riciclaggio sono alquanto lontani dagli standard che si dovrebbero adottare. Un caso fra tutti, quello che si è scoperto nella cittadina di Shantou, 150.000 abitanti, situata in una provincia meridionale del paese. Qui si è visto che i prodotti sono lavorati con un sistema che potremmo definire barbecue elettronico. Si prendono delle tastiere, per esempio, le si butta sulla brace in modo che tutta la plastica si sciolga, quindi un sacco di diossina che si diffonde in aria. E poi anche altre parti di varia natura metallica se ne vanno, si sciolgono, parti che sono pesanti e quindi non finiscono fra le nuvole, però aleggiano in zona aggredendo per esempio i lavoratori addetti al barbecue. Dall'operazione di bruciatura poi si estraggono invece con attenzione i metalli che si vogliono recuperare. Qualche cifra sulla grigliata. Dunque, a Shantou si sono trovati 24 grandi braceri all'aperto, in media con 5-6 tonnellate di materiale lavorate periodicamente da un terzo dei braceri. I risultati sono stati pubblicati dal Journal of Atmospheric Environment. A completare la ricerca sono arrivati altri dati che utilizzano una caratteristica di queste operazioni, cioè di questo smaltimento. Infatti la miscela chimica che esce da tale fortemente impropria modalità di riciclaggio è molto ben riconoscibile e analizzabile, quindi un team di ricercatori l'ha individuata in campioni d'aria che arriva dall'Asia, portata dalle correnti di alta quota. Ma per fortuna ci sono novità interessanti per tutte le esigenze di aria pulita e arrivano da Hong Kong. Si chiama Fresh Air ed è un nuovo prodotto. Il marchingegno è costituito da una bomboletta e una maschera annessa. Si schiaccia un pulsante e l'aria può entrare nei polmoni. Da dove arriva quest'aria? Beh, semplicemente non arriva da Hong Kong, città considerata fra le più inquinate a livello mondiale, ma da quanto ci risulta a livelli assolutamente non superiori a quelli di alcune zone del nostro paese. La Clean Air Network, che è l'azienda che ha lanciato il prodotto, dice che Hong Kong ha un'aria 3 volte peggiore che a New York e il doppio di Londra. Ci sono anche proposte super che vanno in due direzioni. Una bomboletta costa 25 centesimi di euro, quindi è veramente poco, ma ci sono sconti notevoli per confezione di 6, che sono accompagnate pure da una fondina così ci si può portare appresso la bomboletta e estrarla con rapidità in situazioni di emergenza. E poi ci sono confezioni con bombole più grandi per boccate d'aria più esigenti. L'attore più famoso di Hong Kong, cinematografico, ha fatto un promozionale del nuovo prodotto, l'hanno messo su YouTube e in pochi giorni ha ricevuto 143.000 visite. Quarto congresso nazionale della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica si è tenuto qua a Milano e si è concluso in questo weekend. Sono qua in studio con Maurizio Melis. Ciao Maurizio. Ciao Federico e buonasera a tutti. L'abbiamo seguito, abbiamo intervistato due personaggi, Claudio Bandi e Maurizio Casiraghi. Sì. Sono tutte e due impegnati in questo tipo di ricerca, però, come vedrete, con riflessi molto diversi. Molto diversi, soprattutto sì. Il tuo, Casiraghi. Sì, sì, un riflesso rossiccio, oserei dire. Sentirete subito di che si tratta, sono cose abbastanza sorprendenti. Allora, io ho intervistato Claudio Bandi, professore associato di parassitologia all'Università di Milano, e con lui ho voluto iniziare da una definizione di che cos'è la biologia evoluzionistica. Sentiamo. Diciamo che in termini molto informali, con tutti i limiti che può avere qualunque definizione, la biologia evoluzionistica è una disciplina che si occupa della storia della vita sulla Terra, ma non solo della storia, quindi come la vita si è sviluppata sul nostro pianeta, sì, ma anche diciamo dei meccanismi che sono alla base di questo divenire, di questo diversificarsi degli organismi. Quindi è una disciplina che ha sia un contenuto storico, quindi sì, una disciplina diciamo di fatto storica, se consideriamo quello che fa la paleontologia, ma anche quello che facciamo nel ricostruire diciamo la storia evolutiva, la filogenesi, le parentele fra gli organismi, l'origine di determinati caratteri, ma è anche una disciplina che si occupa dei meccanismi che sono alla base di questa storia, di questo divenire. E anche delle relazioni che ci sono tra questi organismi, che è un tipico discorso da evoluzionistico, no? Certamente delle relazioni, perché d'altra parte diciamo il nostro padre rimane sempre comunque Charles Darwin, che ha disegnato i primi, diciamo, quelli che erano i primordi dei nostri alberi evolutivi, per certo, cui è intrinseco nella nostra disciplina quello di andare comunque a studiare delle relazioni e a costruire degli alberi che in qualche modo rappresentino queste relazioni, alberi che in realtà si stanno complicando perché stanno diventando in alcuni casi delle reti infinite, sì, perché la vita è veramente complessa. Ecco, sì, poi magari non ci entriamo, però mi pare anche che sia interessante sottolineare come questo punto di vista evoluzionistico sta anche dilagando, cioè in pratica un po' tutta la biologia deve assumere questo punto di vista, no? Sì, io credo che ormai tutte le persone che si occupano di biologia, diciamo cercando di comprendere i fenomeni e cercando anche, se vogliamo, di fare delle previsioni, assumono una visione evoluzionistica. Quindi in questo senso è una cosa molto, secondo me, molto interessante che la medicina abbia scoperto la biologia evoluzionistica e soprattutto diciamo chi si occupa di microorganismi, malattie infettive, epidemiologia, ormai ha fatto suo il ragionamento della biologia evoluzionistica e molti strumenti della biologia evoluzionistica. Per parlare di un esempio specifico di applicazione, diciamo, di questa teoria, lei adesso mi deve introdurre Wolbachia, strano nome per uno strano personaggio. Che cos'è la Wolbachia? Sì, Wolbachia è un batterio, quindi un microorganismo, un organismo unicellulare relativamente semplice. È un batterio intracellulare obbligato, quindi vive solo all'interno di cellule ed è diffuso nel mondo, diciamo, degli animali invertebrati, soprattutto di insetti, crostacei, quelli ragni, quelli che chiamiamo globalmente gli artropodi da una parte, e poi i nematodi filaridi, che sono dei parassiti molto importanti però anche per gli animali. Ecco, la peculiarità di questo batterio intracellulare è che è trasmesso alla progenie, quindi dalla madre alla prole per via verticale attraverso l'ovario, e questo nel mondo degli insetti e di altri artropodi implica in un certo senso un conflitto fra gli interessi di Wolbachia, che vede nelle femmine diciamo, la nicchia che permette a Wolbachia di diffondersi e di essere sovrareplicata, e l'interesse invece del genoma nucleare, che tenderebbe a portare, diciamo, il rapporto sessi a un 50-50. Quindi Wolbachia manipola la riproduzione degli ospiti deviando il rapporto sessi verso il sesso femminile, con molte modalità, una delle quali è uccidere i maschi, gli embrioni maschili, parlo sempre del mondo degli artropodi. Sì. Un'altra modalità è addirittura femminizzare maschi genetici. In alcuni crostacei la Wolbachia, che abbia, diciamo, la sventura di finire all'interno di un embrione maschile, lo trasformi in una femmina funzionale capace di riprodursi e quindi di trasmettere Wolbachia. Quindi... Ma aspetta, perché Wolbachia allora è dentro maschi e femmine di tutti gli animali in cui... Diciamo, è dentro a maschi e femmine, molto diffusa soprattutto negli insetti. I maschi per la Wolbachia sono una sorta di vicolo cieco, perché il maschio non produce uova o cisti attraverso cui la Wolbachia ha trasmesso la progenie, quindi il maschio a Wolbachia non serve. Wolbachia ha evoluto delle strategie o per convertire maschi in femmine, questo succede nei crostacei, in un paio di specie di insetti, in alcune specie di insetti, o addirittura per femminizzare e per uccidere embrioni maschili. Questo è un fenomeno molto diffuso per esempio nelle coccinelle, quindi deviando il rapporto sessi, offrendo più risorse alle femmine, o anche rendendo partenogenetiche le femmine, creando delle vere popolazioni partenogenetiche, per esempio nelle vespe, dove praticamente abbiamo delle popolazioni o addirittura delle specie costituite esclusivamente da femmine partenogenetiche che trasmettono Wolbachia alla progenie. Partenogenesi, ovvero generare nuovi esseri viventi senza il rapporto sessuale maschio-femmina. Esatto. Quindi questo da una parte è Wolbachia negli insetti, e questo ha attirato molto interesse della ricerca come metodo per il controllo delle popolazioni di insetti dannosi. Dall'altra parte del mondo, ho citato prima come altri ospiti di Wolbachia sono questi parassiti che si chiamano nematodi filari, semplicemente filarie, che infettano qualcosa come 300 milioni di persone, e il cane, diciamo, nelle nostre sì, regioni. Sì, cani, gatti, purtroppo. Certo. E in questi organismi invece Wolbachia si comporta da simbionte obbligato. In altri termini, simbionte vuol dire un organismo che vive in associazione con un altro organismo. Quindi, in altri termini, l'associazione fra questo verme, questo nematode, e la Wolbachia è un'associazione obbligata. Questo è uno studio che è nato da un interesse evoluzionistico, cioè è stato proprio l'interesse per la biologia evoluzionistica che ci ha portato a riconoscere la presenza di questo batterio all'interno di queste filarie, ci ha portato a ricostruire la storia evolutiva e a capire come l'evoluzione della Wolbachia ha seguito in parallelo l'evoluzione di questi nematodi filaridi, potendo ipotizzare che la relazione, che la Wolbachia sia entrata all'interno di questi parassiti qualcosa come 100 milioni di anni fa, e sulla base di questi dati abbiamo ipotizzato che il nematode, il verme, dipendesse dalla Wolbachia per la sua sopravvivenza, per la sua riproduzione. Ed è risultato vero. È risultato vero, abbiamo provato a utilizzare antibiotici per trattare questi parassiti ed eliminare la Wolbachia. In parallelo all'eliminazione della Wolbachia, il verme smetteva di crescere, smette di riprodursi e a lungo termine viene ucciso. Per cui, in altri termini, questa ricerca, che era una ricerca, diciamo, con un contenuto evoluzionistico, ha portato a quella che è la più promettente forma di terapia per la cura delle filariosi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo a parlare di biologia evoluzionistica per questo congresso che si è appena chiuso a Milano in questo weekend. Maurizio, tu hai sentito? Ho sentito un mio omonimo, Maurizio Casiraghi, in questo caso, che è zoologo molecolare, questa è la definizione, ed è ricercatore dello Zoo Plant Lab dell'Università Milano Bicocca. Sì. Dunque, il tema è questo. Parliamo di strumenti, diciamo, della biologia evoluzionistica applicati alla lotta contro le frodi alimentari. In particolare, parliamo di quei casi in cui si vende, diciamo, una specie meno pregiata per una più pregiata. Poi, boh. Beh, insomma, c'è la vecchia storia del gatto e del coniglio, ma qui c'è di molto peggio, ci sono cose molto più fantasiose. È una frode, questa abbastanza in crescita, per via del fatto che si consumano sempre più frequentemente carne e pesce in porzioni già pronte per essere cotte, insomma i classici filetti o tranci, vassoietti. Esatto, in cui l'animale di fatto è irriconoscibile, bisogna fidarsi dell'etichetta. Ebbene, dalla biologia evoluzionistica ci arrivano degli strumenti che ci consentono di riconoscere l'animale da un piccolo pezzettino di tessuto, al limite una cellula, al limite anche meno. E questo, come puoi immaginare, è abbastanza interessante e ha dato luogo a risultati abbastanza sorprendenti. Ecco, io loro ho chiesto a Casiraghi, come prima cosa, esattamente loro che cosa analizzano. Sentiamo. Allora, la tecnica è relativamente semplice in biologia. Si tratta di utilizzare la variabilità in uno o pochi geni, quindi nell'intero genoma dell'organismo, e questa variabilità viene letta come una variabilità di un codice a barre di un prodotto del supermercato. Ovviamente dentro nell'organismo non è che abbiamo dei codici a barre, ma le basi del DNA possono essere equiparate a dei trattini colorati e creare appunto quello che noi chiamiamo il codice a barre della vita o il codice a barre del DNA, che differenzia quindi una specie dall'altra. Quindi voi analizzate in pratica di tutto il patrimonio genetico, di tutto il DNA, un piccolo pezzettino, e questo è già sufficiente a discriminare, cioè varia specie per specie, ogni specie ne ha un tipo caratteristico, ha un barcode caratteristico. Ovviamente non è così semplice, diciamo che in linea generale la risposta è sì, a volte chiaramente la biologia è molto varia, non sempre riusciamo a discriminare, però aggiungendo altri geni, quindi 2, 3, 4, riusciamo comunque a discriminare le specie. E a questo proposito voi state lavorando, se non sbaglio, a un grande database. Sì, perché il grande risultato di questo progetto appunto di ricerca internazionale, di cui noi siamo uno dei nodi appunto qui in Milano Bicocca, è proprio quello di creare questo database dove c'è una associazione tra quello, dicevo, quel codice a barre molecolare, quindi quella variabilità in un gene, con la morfologia, perché chiaramente finché non facciamo questa associazione non sappiamo di chi è quel certo codice a barre. Quindi questo grande database è quello su cui tutti noi ricercatori mondiali stiamo lavorando. Abbiamo già raccolto circa 40.000 specie in questo database, ne abbiamo probabilmente 2 milioni da descrivere, quindi il lavoro è ancora lungo, ma il progetto è giovane, quindi insomma si può andare avanti con fiducia. Allora, andiamo all'applicazione, quella un po' imprevista. Parliamo di frodi alimentari, quindi della vendita di una specie in luogo di un'altra. Voi per esempio state lavorando molto sul pesce, che mi sembra di capire potrebbe essere il prossimo bidone di risonanza nazionale per quanto riguarda le frodi alimentari. Ci faccia qualche esempio. Sì, beh, allora, nel mondo del pesce una storia molto famosa che è nata qualche anno fa era quella del tonno rosso, una specie pregiata in via di estinzione che è molto usata e consumata per il sushi e per un'altra serie di prodotti. E si faceva praticamente un trattamento con monossido di carbonio sul tonno a pinne gialle che faceva trattenere appunto l'emoglobina, quindi la parte rossa del sangue, nel muscolo e diventava il muscolo rosso e quindi sembrava tonno rosso anche se in realtà era un tonno, insomma, con una carne diversa. Certo, si faceva quindi respirare questo gas al pesce proprio. Al pesce, sì. Sì, mentre era vivo, insomma. Sì, prima di morire, sì. Esatto, insomma. Quindi una cosa abbastanza anche truculenta, insomma. Decisamente. Noi appunto siamo partiti da questa cosa perché, come diciamo, il DNA delle due specie sarebbe stato differente e l'avremmo potuto vedere con la nostra tecnica. L'esempio che noi abbiamo, così, su cui stiamo lavorando, è quello del palombo, che è un piccolo squalo che in Italia si consuma molto perché è la componente base del cacciucco. Sì? E sostanzialmente il palombo, che è un pesce che tipicamente non viene venduto intero ma a tranci, sempre a tranci, che abbiamo, certo, visto noi è che sostanzialmente vengono vendute circa 16 specie di altri squali, tra cui anche il famigerato squalo bianco. Addirittura. In un caso, ci siamo magnati anche lo squalo bianco, insomma, squalo quindi bianco. È il contrario di quello che dicono molti film. Viene venduto a tranci al mercato del pesce. Assolutamente, quindi ecco, con questa tecnica ovviamente per noi è stato possibile identificare tutte queste frodi, che sono frodi per lo più di natura economica, perché certi pesci non hanno un mercato, non sono pesci che non avrebbero neanche un valore commerciale in pratica, quindi per il momento è principalmente una frode economica. Sì, non fa male alla salute, però se non sbaglio il risultato era che l'80% circa di ciò che è venduto come palombo in realtà è un'altra specie di squalo. Assolutamente, è corretto. Quello è che diciamo noi sempre è che quando uno cucina appunto il palombo e poi dopo lo cucina la volta dopo e dice ma mi è venuto stato un pochettino diverso, se avrò fatto qualcosa di sbagliato, no, probabilmente ha solo cucinato un altro pesce. Un altro tipo di pesce che aveva bisogno di un'altra cottura. Sì. Altre applicazioni, ma molto velocemente? Ma abbiamo lavorato anche sul mondo dei pesci piatti, Stoglio, la Platessa, dove c'è un altro certo. bel caos, oppure nelle spezie, perché le spezie, quelle che vengono vendute secche, anche lì c'è possibilità di contaminazione con erba. Di solito, erba di prato. Erba di prato, sì, e quindi abbiamo visto questa serie di cose. Ecco, senta, è possibile passare, diciamo, a un livello di specificità superiore e riuscire anche a distinguere le razze oltre che le specie? In Italia, con tutta, diciamo, anche l'attività intorno alla tutela dei prodotti tipici, immagino che sarebbe utile. Sì, ovviamente si fa, diciamo che però non è lo scopo del progetto DNA barcoding, e ovviamente con quei marcatori che usiamo noi non riusciamo a discriminare anche le razze. Ovviamente bisogna fare un progetto, diciamo così, ad hoc. Per ogni caso. Ad esempio noi ne abbiamo uno sulla vite e riusciamo a identificare tutte le cultivar di vite, però ecco, è un progetto diverso che, diciamo, può essere considerato parallelo ma non all'interno del DNA barcoding. Una applicazione ancora diversa ma molto simile poi nei fatti è, diciamo, in collaborazione con il centro antiveleni di Niguarda. Lì che cosa fate? Beh, lì quello che facciamo è che al centro antiveleni di Niguarda arriva un numero di casi molto elevato di persone che soprattutto mangiano intossicati da vegetali, principalmente il barbecue con l'oleandro piuttosto che la stella di Natale. Ecco, sono 400 casi all'anno di gente che mangia la stella di Natale. È incredibile questa cosa, che è tossica, diamo questa informazione. Assolutamente tossica. E quindi la cosa che noi facciamo sostanzialmente è che nei resti, diciamo così, il vomito, perché cose organiche di questo genere a volte non si riesce a capire che cos'è la pianta di cui si è alimentati, ma ovviamente anche un piccolo frammento contiene il DNA e quindi noi possiamo usare questa tecnica per identificare e capire che cosa è stato ingerito. Senta, ultimissima domanda, molto velocemente, ma chi è che froda di più? Diciamo la piccola pescheria, quella, diciamo, di quartiere, oppure la grande distribuzione? Beh, domanda difficile. Una cosa che abbiamo visto noi è che sicuramente in media la grande distribuzione, avendo un numero di passaggi minore, perché direttamente va lei dal produttore, tendenzialmente le frodi sono minori. Susie Orbach è una psicoterapeuta, scrittrice di saggi su temi che riguardano il comportamento umano contemporaneo, vive e lavora in Inghilterra. Comportamento umano non in generale, ma quello connesso all'uso, alla promozione, all'esposizione, alla manipolazione anche del nostro corpo. Nel suo paese è molto nota, anche perché la sua vita professionale l'ha portata per alcuni anni ad avere in terapia la principessa Diana, e quindi va da sé, la fine tragica di Diana ha proiettato sulla ribalta Susie Orbach. L'ultimo suo libro, Corpi, è da 2 mesi in libreria, edito dalle edizioni Codice. È una sintesi delle sue riflessioni che al centro hanno una domanda: come mai nella nostra epoca c'è un'attenzione così forte a intervenire sul nostro corpo? Meglio, perché l'interrogativo è più profondo: quale atteggiamento psicologico sta alla base della tendenza così forte oggi a manipolare il corpo? Un meccanismo che può essere antico anche, no? Affondato nel nostro modo di essere. Come avviene spesso un buon inizio in questo genere di ricerche lo si può trovare nelle patologie. Ascoltate questo breve estratto dal libro di Susie Orbach. Riuscite a immaginare di volervi sbarazzare di un vostro arto perché, anche se avete 2 gambe perfettamente funzionanti, vi danno fastidio al punto da farvi sentire deformi e incompleti? Intrappolati in un corpo che percepite sbagliato e diverso da come dovrebbe essere? E riuscite a immaginare di vivere per 50 anni, durante i quali avete avuto 6 figli, con il pensiero che solo una doppia amputazione sopra le ginocchia vi farebbe sentire interi e completi? Questo era il dilemma di Andrew, affascinato dall'idea di privarsi prima di una gamba, poi di tutte e due. Non trovando nessuno che lo aiutasse a liberarsi di quell'impaccio motorio, rivolse la sua attenzione ad internet ed entrò a far parte di una comunità online di aspiranti mutilati. La maggior parte delle persone, qualora incontrasse un uomo che vuole sbarazzarsi delle proprie gambe, penserebbe immediatamente di trovarsi di fronte a un pazzo, affetto da turbe psichiche. Il desiderio appare così strano e anormale che prescindere dalle proprie reazioni viscerali è difficile. Eppure, lo psicologo Bert Berger, quando Andrew si recò da lui al Veterans Hospital di Milwaukee, riuscì a farlo. Come qualsiasi medico assennato, il dottor Berger riflette bene sulla condizione del suo paziente. L'etica professionale gli impediva di accontentarlo con l'intervento chirurgico che gli avrebbe permesso di sentirsi completo. Così cercò di comprendere lo stato d'animo che aveva instillato in Andrew un desiderio così paradossale. Il problema di Andrew, la sua patologia, era che percepiva le gambe in modo eccessivo. La sua soluzione quindi era amputare. Ve lo dicevo prima, le patologie sono indicatrici di comportamenti meno gravi e normali, però queste patologie indicano la natura delle cose, no? Spesso possiamo dire così, come quando può capitare di avere una fortissima irritazione accompagnata dal desiderio di rompere qualcosa, capita a milioni di persone sul pianeta ogni giorno. In casi molto rari, per fortuna, questa irritazione è uno stato patologico e può tradursi in comportamenti gravemente distruttivi. Ora, la scelta di agire sul proprio corpo, quella che porta una ragazza di 18 anni a non essere soddisfatta del proprio seno, per esempio, e quindi a farsi operare, è una scelta che certamente ha a che fare con dei modelli culturali che la società propone, modelli che allo stesso tempo, tuttavia, si combinano con un'istintiva disponibilità a non accettare ciò che si è e a non tollerare certi modi di apparire del nostro corpo, a non tollerarli anche, perché qui sta il problema, anche quando si appartiene a una normalità assoluta, non si hanno difetti macroscopici, difetti che fra l'altro sono spesso incorreggibili e quindi è più facile che creino rassegnazione. In uno dei tanti commenti di una puntata di agosto vi abbiamo detto che in realtà l'anno finisce con il 15 agosto, poi c'è un breve interregno psicologico di una quindicina di giorni e poi l'anno nuovo parte a settembre, mese nel quale avete ascoltato questa prima puntata di Mebius. Quindi buon anno e ci sentiamo la prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.